Carissimi amici e amiche, bentornati. Nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Tenera Amata. Oggi apriremo un capitolo nuovo con inedite ed ulteriori sorprese rispetto a quelle che già abbiamo incontrato e che, come sempre, richiedono mente aperta e cuore disponibile. Io ribadisco e ripeto, perché sapete, i riscontri che arrivano su questo ciclo di catechesi, come potete immaginare, sono di un duplice genere. Persone entusiaste ed estasiate e persone che evidentemente, non avendo capito alcune cose e ragionando con gli schemi mentali di certe loro idee che si sono fatte del cielo, o di altre realtà anche della Terra, non riescono evidentemente a entrare in certe cose, non le riescono a comprendere e quindi ne restano scandalizzati. È la stessa identica cosa che capita con gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, tale e quale ed identica. E anche di altre realtà analoghe, no? Tipo anche la stessa Maria Valtorta. Quindi io penso che sia abbastanza normale, perché le cose che vengono dal cielo, insomma, producono sempre questi effetti. Non deve stupire. Basti pensare, insomma, alle reazioni prodotte da nostro Signore Gesù Cristo, insomma, no? Quindi che la maggioranza poi è purtroppo per lui, evidentemente per quanto riguarda la sua esperienza terrena, furono la stragrande maggioranza negative, non positive. Questo perché è difficile. Vi ricordate quando Gesù dice: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio, no? Ecco, anche il Vangelo della Messa di oggi, non si entra nel regno di Dio se si rimane ad una giustizia improntata a quella degli scribi e dei farisei. Attenzione, scribi farisei buoni, non gli scribi farisei ipocriti. Va bene, quindi fatte queste premesse, ci addentriamo in uno step ulteriore, quindi in un capitolo ulteriore, che ce lo lasciamo introdurre da Tenera Amata stessa, perché quindi chi c'ha da scandalizzarsi con questo capitolo si scandalizzerà ancora di più. Chi invece ha il cuore aperto trarrà motivi di ulteriori gioie soprannaturali. Come ultima cosa, siamo al capitolo 26, mi disse Tenera Amata: se sei d'accordo, andremo a trovare Bianca, il tuo amore numero 2. Aiaia, adesso qui abbiamo l'amore numero 2. Abita qui vicino, in via Galeana, ricordi? Ci trasferiremo rapidamente all'anno 1927 e ci ubicheremo in uno spazio-tempo opportuno. Voglio che osservi il potere dei beati sugli spazi-tempi del loro organismo integrale, conservati fedelmente nella quinta dimensione. Attenzione a questa espressione: potere dei beati sugli spazi-tempi del loro organismo integrale. Spero che queste nozioni, arrivati ormai al capitolo 26, siano chiare, perché se non sono chiare dobbiamo fare un po' di ripasso, no? Sappiamo bene che il tempo non scorre mai in maniera indipendente dallo spazio, perché adesso sono le 21:47 del 3 marzo 2023, certo, ma io mi trovo a Sermoneta e davanti al mio computer dove sto facendo questa diretta, non mi trovo altrove. Quindi il mio tempo attuale si svolge rigorosamente qui, questo non c'è nessun dubbio, sono qui e non altrove. Quindi lo spazio-tempo che va in questo momento costruendo la mia eternità creata in questo istante è questo. Ora però, se si spera un giorno lontano, dopo tanto purgatorio, ma speriamo, diventerò beato, io potrò tornare in questo spazio-tempo conservato nella quinta dimensione ed esercitare un potere. Adesso vedremo quali. Chiaro questo qui, perché se non è chiaro questo, è inutile che andiamo avanti perché dopo diventa difficile seguire, no? Riccardo, ribatte facendo delle considerazioni. Era favoloso viaggiare attraverso l'eternità creata. Quanto mi sarebbe piaciuto sentire le tremende accelerazioni o decelerazioni. Immaginate che spettacolo, no? Quando... Perché... Tenenamata ce lo porta istantaneamente, quindi non gli fa sentire il brio del viaggio nello spazio attraverso gli spazi-tempi, no? Quindi attraverso la quinta dimensione. Ce lo porta istantaneamente, quindi già miracolo ce lo porta, però non c'è il brivido dell'accelerazione e della decelerazione, no? Specialmente a chi piace correre, dovrebbe essere una cosa abbastanza interessante, no? Vabbè. La mia incantevole amica sfiorò ancora una volta con le dita il dorso della mia mano, neanche allora seppi come avvenne, e quando mi resi conto, stavo insieme a lei, di fronte alla casa di Bianca. In quell'istante del nuovo paratempo, Bianca stava uscendo e non finiva di chiudere la porta. La si vedeva immobile, con una delicata statua infantile. Bianca era nel 1927 un'incantevole fanciulla bionda, dai grandi occhi colore caffè molto scuri. Appariva graziosa, ma non come la mia bella defunta. Mi aveva entusiasmato molto a quel tempo, ma al presente la trovavo troppo bambina. Ricorda, disse teneramata, che la frequentasti quando aveva appena 12 anni. La stessa età tua. Osservala con calma. Già sappiamo che non può vederti. Bianca era stato il mio secondo amore, o il terzo. Nei miei ricordi appariva bellissima e attraente, adesso però la vedevo come una graziosa ragazzina, che ben avrebbe potuto essere per me una nipotina. Quanto cambia l'essere umano dentro e fuori. Il mio appassionato amore infantile era diventato una placida tenerezza di nonno. È chiaro che la presenza fisica di questa bambina evocava fortemente i miei ricordi infantili di lei, ma adesso non potevo più amarla come nella mia infanzia. Che? Non ti piace più? Disse teneramata con un'aria scherzosa nel suo sorriso. Ma, risponde Riccardo, stando con te... Nessun'altra donna riesce ad attirarmi, non mi rimane altra capacità d'amare. E non esagerare, gli risponde teneramata. Se in qualche cosa sei molto ricco, è nella tua potenzialità di amare, è infinita. Quello che succede è che l'amore tra i viatori, attenti, nonostante sia molto ampio e potente, è sommamente debole nel suo esercizio. Non riesce a suscitare tutto il vigore che contiene, per quanto il mortale si suggestioni del contrario. È perché l'amore terreno si esercita soltanto nel fugace spazio-tempo dell'istante attuale. Quando scoprirai la sesta dimensione, ti sentirai annientato davanti alla vigorosa intensità dei piaceri celesti. Già ho avuto modo di dire, questa è la seconda volta che compare, che ho letto 6 o 7 volte sto libro, ma sta sesta dimensione io non sono riuscito a trovarne la descrizione nelle letture precedenti. Chi lo sa che avvenga il miracolo che ci riuscirò mentre ne parlo facendo queste fraterne condivisioni, no? Nessun oggetto d'amore di qua è capace di soddisfare la sete infinita di amore e di felicità che contiene il cuore umano. Questo tutti quanti più o meno lo percepiamo, ma qui non c'è niente in questo mondo che possa soddisfare la nostra sete infinita di amore e di felicità. Lo stesso succede nella patria con l'amore creato, non invece con la visione beatifica, che è pienamente appagante. Ma se mi posso permettere, questo forse tenera amata, essendo vissuta nel matrimonio e non nella verginità, forse non ha avuto coscienza nella vita terrena, vale la stessa cosa anche qui. Solo se si entra in un rapporto profondo, ma proprio profondo, profondo con Dio, il che significa anche, non solo, ma anche vivere nella divina volontà, si comincia a sperimentare l'appagamento e la felicità. Un principio almeno, cioè la percezione che non si potrebbe chiedere niente di più dalla vita terrena. Ma fino a quando l'uomo cerca il suo amore nelle creature, attenzione, questo possono farle anche le persone devote, anche le persone che vanno a messa, d'accordo? Perché Gesù dice una cosa fondamentale: là dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Vuoi sapere qual è la cosa per te importante? Il cuore è la sede dei pensieri nella Sacra Scrittura. Attenzione, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, canta la nostra regina nel Magnificat. Quindi, vuoi sapere dove è il tuo cuore? A che pensi durante la giornata? Quando noi siamo innamorati, che succede? Non pensiamo a nient'altro, dalla mattina alla sera. A nient'altro. Può succedere questo con Dio? Ha voglia che può succedere questo con Dio. Ha voglia. Felici coloro che sanno che può succedere questo con Dio, con Gesù, con la Madonna. Ecco. Gesù è Dio, no? Ma intendo Dio come la Santissima Trinità, poi le devozioni personali sono infinite, eh? Sono dei santi che erano molto devoti del Padre, altri dello Spirito Santo, la maggioranza dell'umanità Santissima di Gesù. Alcuni santi, specialmente maschietti, che erano completamente rapiti solo al pensiero della Madonna, no? Quindi dipende. Quello che resta è che nessun oggetto d'amore di qua è capace di soddisfare la sete infinita d'amore e di felicità che contiene il cuore umano, e lo stesso succede nella patria, salvo per quel che concerne la visione beatifica. Per questo è assai molteplice l'amore dei beati nella loro gloria accidentale. Qui sta ribattendo a Riccardo, che dice: ah, mo adesso c'ho davanti a te e non posso amare nessun altro. Ma no, no, non è così. Per questo, attenzione adesso a questo passaggio, è assai molteplice l'amore dei beati nella loro gloria accidentale. Naturalmente, questa molteplicità, aprire bene le orecchie, specie per quelli dallo scandalo facile. Sapete quanta gente si scandalizza perché dice: ma no, c'è il matrimonio, com'è possibile che sono stato sposato e poi ho tutti quanti questi amori? Tenera amata inneggia l'adulterio. Anche questo mi è arrivato come riscontro da qualche mail, ma cioè dico, vabbè, dopo, leggi bene, ecco, sentite questo passaggio. Naturalmente questa molteplicità non vige nel matrimonio cristiano, che per volere divino deve essere esclusivamente monogamico. Arrivo al punto e su questo mi fermo, perché c'è un motivo per questo. Ma nella gloria eterna ognuno si soddisfa nell'amore di carità di tutti gli altri. Non vi è dubbio che l'uomo è stato creato soprattutto per l'ammirabile società celeste. Invano sulla terra cerca ciò che si trova soltanto nell'aldilà. Questo passaggio, che non è un en passant, è fondamentale. Questa molteplicità non vige nel matrimonio cristiano, che per volere divino deve essere esclusivamente monogamico. Allora, in questo mondo non c'è la molteplicità degli amori, non c'è la possibilità di sperimentare la multiformità dell'amore universale tra gli enti creati, non c'è. E qui per quanto mi riguarda non ho nessun dubbio, c'è il collegamento con il ciclo di catechesi dell'anno scorso. Peccato originale. E la sua dimensione sessuale, l'ingresso della sessualità libidinosa, perché questa è purtroppo, nel rapporto tra uomo e donna. Perché c'è il matrimonio monogamico in questo mondo? Perché c'è il matrimonio monogamico? Ma perché queste cose che sono del cielo non le possiamo anticipare sulla terra? Perché? Per un motivo molto semplice. Perché è impossibile adesso vivere un amore di carità pura. Quindi, di carità pura significa che prescinda dalla dimensione sessuale, impossibile. Perché c'è la concupiscenza. Tu puoi avere tutte quante le migliori intenzioni di questo mondo, nessuno di noi è esente da questo. Nessuno. E quindi nostro Signore, perché questa cosa fosse ristretta e limitata il più possibile e anche finalizzata al suo scopo, che è la procreazione, ha stabilito il matrimonio monogamico. Tu vivrai l'amore e quindi necessariamente nell'amore anche questa dimensione che non può in questa vita non essere attivata. Ma vi ricordate cosa ha detto Teresa Amata? Nell'aldilà esiste il sesso? Non esiste il sesso. Non c'è. Non c'è più. Questo lo dice Gesù nel Vangelo, veramente, prima di dirlo Teresa Amata, nel famoso discorso che fa con i Sadducei sulla risurrezione della carne. Quindi, per quanto mi riguarda, l'assenza della dimensione sessuale nell'altro mondo e la sua presenza in questo mondo spiegano totalmente già questo punto. Perché qui no e perché di là sì? Perché Dio ha blindato il matrimonio rigorosamente monogamico, eh? Attenzione. Spero di essere stato chiaro, quindi, e con questo si capisce benissimo che tutto quello che dice Tenera Amata non contraddice minimamente né la disciplina del matrimonio cristiano, né il fatto che bisogna arrivare vergine al matrimonio, né il fatto che bisogna essere fedeli alla moglie e che non si può qui sulla terra andare divagando e fare i farfalloni neanche col pensiero a destra e a manca. Queste cose ci vengono rivelate non perché le cominciamo a vivere qui, ma perché sappiamo quello che ci aspetta di là, quando tutti quanti gli ostacoli che sono inevitabili post peccato originale in questo mondo saranno rimossi. Spero di essere stato chiaro, spero. Quindi mi sento molto sicuro che ti sto amando con tutte le mie forze, ribatte Riccardo. Ti sbagli, dice Tenera Amata, per insufficienza dei sensi, vincolati al momento presente. Ancora, vedete, la coscienza del viatore non riesce a percepire in tutta la sua pienezza la bellezza delle persone e delle cose. Attenzione a un'altra cosa meravigliosa, attenti a questo passaggio. La percezione della bellezza dipende, oltre che dalla natura del soggetto conoscitore, dal suo stato soprannaturale. L'uomo in grazia di Dio percepisce la bellezza meglio del peccatore. Notizia bomba questa qui. Sapete che significa? Quando uno non è capace di vedere le cose belle della vita, di gustare anche le cose belle e lecite della vita, no? Di vedere le cose buone. Vita di grazia assente o tisica, carente, scarsa. Ah, io su questo sottoscrivo al 400%, senza nessun dubbio. E sentite cosa aggiunge ancora Tenera Amata. La bellezza fisica e morale, insieme alla bontà e al valore eternità, è quello che più sollecita l'amore nell'uomo, sia viatore che glorificato. La bellezza fisica. e morale. Cioè, la bellezza fisica la sappiamo tutti che cos'è. Cioè, se una persona è esteticamente bella, ma anche la statura morale, la bellezza morale, la bellezza interiore, la nobiltà d'animo, le virtù di una persona, il carattere, la personalità. Tutte e due. Ecco, dice Riccardo, ebbene, quel poco a me sembra molto, i miei occhi non avevano mai contemplato una bellezza come la tua. E Teneramata gli risponde, e pensa allora a quanto godrai in cielo quando percepirai con tutta chiarezza i cinque grandi valori. Verità, bontà, bellezza, unità ed eternità, ne abbiamo già parlato a suo tempo, il quinto trascendentale dell'essere, nessun filosofo io l'avevo sentito dire prima di Teneramata, forse allora, i tre trascendentali classici erano l'uno, il vero e il buono, questo basta leggere San Tommaso, ogni ente in quanto ente è uno, è vero e buono. La scuola francescana, l'ho già detto a suo tempo, giustamente percepiva anche il bello. Ogni ente in quanto ente, in quanto ente, in quanto uscito dalle mani di Dio, è bello. Tutti gli enti in quanto usciti dalle mani di Dio. Ma come? Ci stanno dei mostri in giro, ancora non è uscito dalle mani di Dio. Il mostro è qualcosa o qualcuno su cui si è scaricato qualche effetto negativo del peccato del mondo. Da Dio non escono mostri. Cioè, e i diavoli, ma i diavoli erano tutti bellissimi, sono diventati mostri, non sono nati mostri. Dio è bellezza suprema, assoluta. Da lui non escono cose brutte. Quindi ogni ente in quanto ente è bello, quindi in quanto ente vuol dire in quanto creato da Dio, ma ogni ente in quanto ente è eterno. Questo bisogna mettere solo. Tutti gli enti sono eterni, eh? Non solo noi che siamo capaci di Dio e che avremo la vita eterna, questo dovremmo averlo imparato, ma tutti gli enti, proprio tutti, hanno il loro spazio di eternità consistente negli spazi-tempi della loro esistenza. Che ne so, quanto campa una quercia, dicono che una quercia può campare pure, una quercia gli ha detto bene, insomma, una quercia può campare pure centinaia di anni, se non mi ricordo male, no? A differenza di un cagnolino che si deve accontentare dei 20 massimo, un cavalluccio una trentina massimo. Però quei 20, quei 30, non è che sono. Lui ha fatto la sua corsa, è comparso nel tempo, è nato, è vissuto, è morto, e dopo che è morto non c'ha l'anima, quindi in paradiso non ci va un animale, questo è ovvio, è morto, è finito. That's not so simple, abbiamo imparato, non è così semplice. Anzi, non è proprio così. Perché ogni ente in quanto ente è eterno e anche l'ente non intelligente, non capax Dei, direbbero i classici, non capace di Dio, è eterno. Allora, pensa allora a quanto godrai nel cielo quando percepirai con tutta chiarezza i cinque grandi valori: verità, bontà, bellezza, unità ed eternità nella più piccola beata. Nemmeno riesce il viatore a comprendere questi cinque valori che sono nascosti anche nella cosa più insignificante. Lei li chiama valori. Ripeto che tecnicamente questi in metafisica si chiamano i trascendentali dell'essere. Trascendentale dell'essere vuol dire attributi, proprietà che ogni ente creato in quanto tale ha e non gli ritoglie nessuno. Perché, dice Riccardo, dice perché nessuno nemmeno riesce il viatore a comprenderli? Perché il disprezzo e la noncuranza verso il nostro Dio hanno ridotto la vita mortale ad un attimo di prova in cui meritare il cielo. Questa è una frase da scriversi e da attaccarsela sopra il letto. Il disprezzo e la noncuranza verso Dio hanno fatto diventare la vita terrena un attimo di prova in cui meritare il cielo. non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. C'è il paradiso perduto, c'è l'Eden che ce lo siamo giocati. E adesso la vita terrena non è altro che appunto un combattimento, una prova in cui ci giochiamo la nostra sorte eterna. Salvezza o dannazione. Siamo pure in quaresima, siamo, no? Questo ogni tanto bisogna ricordarselo, perché si portava un sacco di gente che mica se lo ricorda questo qui, Non è detto che andiamo tutti in paradiso, Io sarei molto contento se così fosse e di poter dire una cosa di questo genere. Ma una cosa di questo genere, che oggi pare abbastanza diffusa, non lo è mai stato nel corso della storia della Chiesa, mai. Anzi, era diffuso ben altro. La convinzione che la stragrande maggioranza, anche tra i battezzati, non ce la facessero a raggiungere la salvezza. Non ce la facessero. Leggete, non mi credete? Leggete. Chi ha la pazienza e chi ha la capacità, anche se si riesce a leggere i testi originali, comincia a divertirsi un po' a andare dai padri della Chiesa, ai grandi scrittori, santi, mistici, andate a vedere quello che hanno scritto, se non credete a me. Cioè, che me ne importa di andare a dire una cosa del genere, no? Non sarei più contento di dire: ragazzi, prepariamoci, ci stiamo leggendo il film che certamente vedremo tutti. No, non lo vedremo certamente tutti. Lo auguro di vederlo a tutti, ma non è detto. Non è affatto detto. Quindi il disprezzo, la noncuranza verso il nostro Dio hanno ridotto la vita mortale ad un attimo di prova in cui meritare il cielo. La patria è il luogo dove davvero si realizza l'amore di carità, più o meno frustrato in questo mondo di peccato. Gli amori sono tutti quanti quasi tutti frustrati in questo mondo, non si possono vivere. Frustrazione vuol dire una cosa che tu non puoi avere. La desideri ma non ce l'hai. Perciò nella tua condizione di pellegrino tu non potresti sopportare l'immenso piacere di comprendere fino in fondo la verità, di amare la bontà, di godere la bellezza, di usufruire tutto questo nell'unità e nell'eternità della cosa più insignificante. Per adesso la pienezza dell'essere rimane occulta a te, nel più intimo delle sue viscere. La lettura del libro di Tenera Amata deve farci prendere coscienza di un'altra cosa. Noi qui stiamo in una condizione misera. La persona più dotta, più intelligente, non ci arriva a certe cose. Non ci può arrivare. C'è un limite intrinseco, ci abbiamo delle tare che non ce le possiamo gettare alle spalle fino a quando siamo qui. È impossibile. Quindi è già un miracolo se dentro sto marasma riusciamo a incamminarci. Sapete quante volte mi fanno le domande, anche in diretta succede qui con Telegram, no? Cioè, ci sono alcune domande che non ci hanno risposta. Non ce l'hanno, non siamo in grado di darla qui, ed è normale che sia così, perché qui stiamo in stato interdizionis. Riccardo ribatte: e così dunque conosco le persone e le cose appena approfondità di periscopio? Per giungere all'essenza intima, risponde Tenera Amata, per forza avrai bisogno dello scafandro della glorificazione. Ma questo, per esempio, è un particolare. Io adesso non lo so come funzionano le cose tra marito e moglie, d'accordo? Perché non ce l'ho la moglie. Però per tanti anni, quando ero giovane, ho avuto la mia fiamma più grande. Penso che la conoscevo abbastanza bene, ma non troppo, perché la personalità profonda di chi ci sta vicino rimane nascosta a noi, no? Perché? Se non altro perché, punto primo, non conosciamo tutti quanti i pensieri di chi ci sta vicino. E punto secondo, non conosciamo come loro percepiscono la realtà dal loro interno. Quindi, e adesso dimmi, torniamo al testo. Mi domandò con un sorriso più divertito: che cosa le manca a Bianca perché attualmente ti attiri tanto come nella tua infanzia? Già mi immagino, ecco, gli scandalizzatores quando sentono fare questa domanda, dice, ma che razza di domande sono? Ti pare che un'anima beata in paradiso va a fare queste domande? Questi sono quelli che sono rappresentati il paradiso come un monastero di clausura, un monastero di clausura, un posto bellissimo, per carità, d'accordo? Ma il paradiso non è solo il monastero di clausura dove come dire, nel raccoglimento, nel silenzio assoluto si cantano le lodi dell'Altissimo e si sta in silenzio e si prega e si lavora. Questo è il monastero di clausura qui. Qui che funziona così, perché qui non stiamo in paradiso, qui stiamo in prova. Allora, risponde Riccardo. Le volli bene assai, allora. Ricordo i miei sentimenti verso di lei, ma oggi la vedo troppo bambina. Dice. E sentite, sentite, Teleramata, capite anche quello che gli sta facendo vivere, no? A quest'uomo e quello che gli vuole far capire. Dice. Ti piacerebbe contemplarlo a 23 anni? Teneramata non aspettò la mia risposta, tornò ancora a vivificarmi, quindi solita tocchetto con il dorso delle dita sulla mano, e un'altra volta, senza sapere come, mi trovai insieme con lei nel cortile dell'Università di San Luis Potosí. Era di mattina presto, aveva piovuto e soffiava un vento freddo che penetrava nelle ossa, ma era il freddo conosciuto, differente dall'altro freddo strano che mi aveva molestato nei paratempi. Anche di questo ne abbiamo già parlato. Ci ubichiamo nel decorrere normale del tempo terrestre passato, mi disse tranquillamente, senza importarle il forte inverno potosino. Siamo a dicembre del 1938, togliti dalla pozzanghera dove sei in piedi e consulta il tuo orologio. Infatti il mio orologio segnava il tempo e ne sentivo il tic-tac. Quindi stavolta si sono posti nel decorrere normale del tempo, non sono andati in qualche paratempo. Non senti freddo? Le domandai vedendo il suo leggero vestito d'estate a dicembre. Sì, ma non mi molesta, anzi, mi carezza. Già ti ho detto che il corpo dei beati è invulnerabile. Fino a noi arrivava il mormorio della città che incomincia a lavorare, il rumore della scopa quando il vecchio spazzino passava l'acqua delle pozze alle lastre del cortile meno bagnate. Non ebbi difficoltà nel riconoscere Bianca che si avvicinava a noi. Si vedeva bellissima. Ha ragione, mi entusiasmava quando la trattai da bambina. Dopo non l'avevo più rivista. Per la bilocazione che poco prima avevo fatto nel mio corpo infantile, avevo presenti redivivi i miei sentimenti infantili, l'incipiente sentimento dell'amore, la sua veemenza, la sua delicatezza, la mia brama di tenerezza e l'ansia di proteggere e difendere la mia amata, i miei desideri di comprensione e di amicizia. Bianca si avvicinava a noi come un'autentica donna regale, un perfetto monumento alla salute giovanile. Esattamente proporzionata nelle sue rotondità e ben sicura di se stessa, il suo garbo evidenziava incapacità per qualsiasi tenerezza, il suo portamento, altero, grazioso nel camminare, ma pieno di sé, manifestava mancanza di dolcezza. La ingenua e tenera Bianca era diventata un'attraente ed esuberante donna focosa, passionale, autoritaria, radiosa e molto sicura del potere della sua bellezza. Mazza che analisi, no? Mi colpì il fatto che io fossi stato in grado di percepire tutto questo con un semplice sguardo. Mai prima ero riuscito in psicologia. Stavo forse gonfiando la mia valutazione? Adesso attenzione alla risposta. No, non esageri, mi confermò teneramata. Quel che succede è che ti sto comunicando l'immagine della vera personalità di Bianca in questa data del passato. Capite? Cioè, sta facendo vedere a Riccardo come la vede lei. Perché come la vede lei è come era in realtà in quel momento, quindi la visione oggettiva. A quell'età era una ragazza abbastanza vissuta. Ti piace ai suoi 23 anni? Aggiunse col suo sorriso celestialmente ironico. Sta giocando, sta tenera amata, no? Sta provocando, se vogliamo. Sì, naturalmente, risponde Riccardo, ma in modo diverso da come mi affascinò nella sua adolescenza. Pensai che l'anatomia e la fisiologia umana si giocano molti scherzi con l'aiuto di loro inseparabili compagni di gioco, il tempo e lo spazio. Tenera amata reinterviene e dice: Dai, se tu fossi capace di mettere e togliere, come miglioreresti Bianca per poterla amare con grande e appassionato amore? Penso sempre agli scandalizzatores, eh? Mi disse tenera amata. A che pro voler sognare? Risponde Riccardo. Io so che l'amore ottiene il cambiamento di condotta di quelli che si amano, ma non modifica la costituzione fisica né il temperamento della persona amata. Genio e figura fino alla sepoltura, cita un proverbio, io non l'ho mai sentito questo qui, sarà un proverbio messicano. E Tenera Amata dice, non essere pessimista, e rispondimi, dice, rispondi alla domanda, dice, che cosa vuoi modificare? Dice, non mi occorre pensare molto, mi piacerebbe che conservasse la sua ingenuità di bambina, unendola alla sua esperienza di donna e alla sua cultura universitaria. Sì, vorrei che in lei si armonizzassero, non so come, il suo candore infantile e la sua esperienza femminile, ma senza finzioni. Preferirei che le sue gambe fossero meglio modellate e che i suoi occhi fossero come i tuoi, ma non darmi retta, sto chiedendo un cocktail impossibile. Risponde tenera amata, vedrai che non è impossibile. Per questo serve l'eternità creata. Basta ricorrere agli spazi-tempi che conservano l'essere umano integrale nella persistenza vivente della quinta dimensione, la cosa più naturale e frequente nel cielo. Adesso attenzione, eh? Per ottenere cambiamenti nella personalità è sufficiente situare alcuni centri nervosi dell'organismo totale in un determinato ritmo del tempo. Nel frattempo, altri nuclei di neuroni funzionano in diverse frequenze della quarta dimensione. Sappiamo cosa sono i neuroni, eh? È meglio che lo dico. I neuroni sono le cellule del cervello e del sistema nervoso. Ok? Quelli che stanno nel cervello e sono gli strumenti di comunicazione degli impulsi del cervello in tutto quanto l'organismo. Cioè, ci serviamo degli spazi-tempi e delle onde temporali come se fossero i nostri arnesi, dominandoli anziché essere da essi dominati, come succede ai mortali. In questo modo, l'anima glorificata rende a suo piacimento il temperamento e il carattere che in gran parte dipendono dalle sinergie ormonali, le ghiandole secernono i propri ormoni d'accordo con la nuova sistemazione dei centri nervosi. Qualcosa come se il tuo organismo integrale fosse di plastica, lo modellassi a tuo piacere. Anche qui, più una persona è competente, quindi ha una conoscenza anche tecnica di queste cose, e più capisce. Però qualcosa, se ci si fa attenzione, si capisce. La premessa è il potere che l'anima beata ha sul suo organismo integrale in tutti gli spazi-tempi. Quindi qui c'è un processo di, anzitutto, collocazione in diverse frequenze della quarta dimensione. Ok? E al tempo stesso l'intercomunicazione tra diversi spazi-tempi della vita terrena. Cioè, come fa Bianca a ridiventare dolce come una bambina, come dicevo, il candore infantile dentro la personalità altera e piena di sé di una 23enne? Va a pescare e a riadattare lo spazio-tempo di quando era bambina. Ma come si fa a conoscere questa complicata fisiologia? Risponde Riccardo. Domandiamo al nostro Dio, risponde Terra Amata. Egli è desideroso di spiegarcela, dal momento che vuole la nostra felicità accidentale. E poi l'anima glorificata conosce molto bene la tecnica. Questo dominio dell'anima sugli spazi e tempi dell'organismo totale, attenzione, dominio dell'anima sugli spazi e tempi dell'organismo totale, consente ai beati di modificare diversi momenti dei loro corpi, cambiare le fattezze, acquistare nuovi e molto reali aspetti di bellezza, ringiovanire, aumentare o diminuire di statura, di peso, la complessione, senza bisogno di supplizi in istituti di bellezza, né trucco, né diete, né ginnastica. Bello, eh? Qui per rimanere appena appena presentabili tutte queste cose, amici, poi tra l'altro ogni tanto si fanno le loro belle magnate con le succulenze celesti, si bevono i liquori celesti, quindi senza problema che te fai la magnate, bevi e poi te vai a pesare su 2 kg di più. Il complesso materia, energia, spazio, tempo, eternità creata ci ubbidisce ciecamente, senza possibilità di errore. Attenzione, materia, energia, spazio, tempo, eternità creata. Non solo che gli ubbidisce ciecamente, ma io immagino molte persone che ascoltano queste cose qui, che magari, come dire, non hanno una cultura, che seppure perdono, no? Fa niente, tanto quando arriverà l'ora ti sorprenderai, perché queste cose, pure se non le capisci adesso, le vivrai. Poi te le ricorderai, perché sicuramente te le ricorderai, perché chi queste cose le ha sentite, guardate, non è la stessa cosa avere sentito o non avere sentito queste cose qui, eh? Poi se dice, ammazza, quella volta ho letto Tenera Amata, Leonardo si è pure provato a spiegarlo un po', ma non ci ho capito niente, ammazza, però è proprio così. Chi arriverà alla vita beata può stare proprio tranquillo che succederà questo, no? Ricorda che partecipiamo analogicamente all'onnipotenza divina. Ricordate quando, io ogni tanto faccio un po' di ripasso, no? Quando Terra Amata ha preparato il bocconcino succulento a Riccardo, non usando gli ingredienti che si usano nelle alte cucine degli alti chef, ma usando come strumento di lavorazione il cellophane del pacchetto delle sigarette, e l'ha semplicemente rammammocciato dentro le mani. E quando quello non ci voleva credere, non se l'è mangiato, se l'è leccato i baffi. E gliel'ha spiegato come ha fatto, dice. Ho soltanto alterato la composizione chimica, ho lavorato sugli atomi. Sono poteri divini questi qua, noi non possiamo farlo qui adesso, capite? Io vorrei tanto, per esempio, riandarmi a ristudiare pure un bel po' di chimica, andare a vedere tutte quante le basi, tutti quanti i legami, tutte quante quelle cose che c'è, no? C'è un ricordo vaghissimo di queste cose qua. Ma non è che lo farei per andare a deliziarmi un altro po' su tutto quello che si è inventato Nostro Signore e poi immaginarmi pure un po' meglio, sapendo queste cose, come si può tutto quanto rimanipolare, tutto quanto rimischiare, reimpostare. Però non c'ho tempo, Anna, ma studio pure la chimica, ma ci manca solo quella, ci manca purtroppo, no? Vabbè. In questo mondo, dice Riccardo, tu lo sai, ci attacchiamo all'immagine delle persone che amiamo, vorremmo renderla eterna. Ci riempie di entusiasmo quando la troviamo bella e di tristezza quando va perdendo la sua freschezza. Oh, grazie a Dio nel cielo non esiste la bruttezza. E il cambiamento di aspetto è soltanto sulla linea della perfezione progressiva e senza limite. Deve essere fantastico cambiare fisionomia a volontà. Come nostro Signore Gesù Cristo, vedete, che non fu riconosciuto dai discepoli di Emmaus, tutti quanti che si scervellano, per non lo riconoscevano perché non avevano la fede, e allora, ma l'ho fatto pure io queste prediche qui, per carità, no? Oppure, aspettate, le persone, vedete quando uno non capisce un tuborg, allora, la Madonna, poi a Guadalupe è apparsa con una maticcia, Anguera c'ha i capelli neri e gli occhi azzurri, a Međugorje c'ha i capelli biondi e gli occhi verdini, per dire, no? Che ne so. Se uno sa queste cose, c'è da stupirsi. È chiaro che nella vita terrena, se uno va a rivedersi come era fatta la Madonna nella vita terrena, ha certamente una sua conformazione. E per quanto mi riguarda, la Madonna nella vita terrena, come nostro Signore, aveva i capelli castano chiari, molto chiari, forse anche un pochino ramati o tendenti al biondo, gli occhi azzurri. Certamente, come Gesù, evidentemente una statura perfettamente congrua per una donna, sarà stata intorno a 1,65 m, mani e piedi perfettamente proporzionati, un corpo certamente statuario, anche se non l'ha mai visto nessuno, perché era certamente stupenda, ma è chiaro che nella eternità creata. Ma se la Madonna è bionda con gli occhi azzurri, come ha fatto a apparire a Juan Diego come una meticcia? Ecco, a parte il fatto che anche non sapendo queste cose, no? Cioè, se uno entra in paradiso e partecipa dei poteri divini, ma Dio può prendere e alterare, evidentemente alterare non per distruggere, ma per rielaborare qualunque cosa come vuole. Adesso sapere queste cose ti dà un input in più. Cioè, noi non possiamo, amici, noi non possiamo incarcerare, cioè, quando giudichiamo le cose soprannaturali, a parte che le cose soprannaturali, amici cari, meno le giudichiamo e meglio è, nel senso che prima di balbettare qualcosa dobbiamo aver molto ascoltato e molto imparato. Molto ascoltato e molto. Che ti metti a giudicare queste cose qui? Io veramente, delle volte, quando leggo certe mail, faccio una fatica enorme, perché sono ancora un peccatore, a non farmi venire i nervi, perché sicuramente chi scrive non si rende conto di quello che fa. Dico, ma che ti metti a fare questi discorsi? Ma che ti metti ad applicare le tue piccole, limitate, misere categorie umane a queste cose? Non lo fare, no. È completamente ridicolo. Quindi deve essere fantastico cambiare fisionomia a volontà come il nostro Signore Gesù Cristo che non fu riconosciuto dai discepoli di Emmaus. Forse è l'istinto della gloria futura, ciò che muove le donne a tingersi i capelli e a truccarsi. Speriamo che sia quello. Perdonatemi la battuta, eh? E non la vanità. Vabbè. Tenera Amata dice: incominci a balbettare il linguaggio celeste. Infatti, il desiderio di perfezionarsi fisicamente e di cercare nuove forme di bellezza è un impulso dell'istinto della felicità futura che sospira di realizzare in questo mondo i costumi della patria. Questo non vuol dire che sia una cosa buona. Però attenzione, questa è un'altra forma di sapienza. Cioè, perché noi, a meno che non c'è, se siamo normali, cerchiamo di apparire anche esteriormente decenti, gradevoli. Rinunciare a questo è una mortificazione che uno offre con fatica, con sofferenza, per amore del Signore, perché qui in questo mondo le mortificazioni hanno un grande valore agli occhi dell'Altissimo. Ma anche se io offro la mortificazione, è appunto una mortificazione, nel senso che io nel cuore desidererei, rinuncio per offrire un sacrificio per amore del Signore, no? Quindi, e che cos'è questo desiderio? Anche se non lo metto in pratica per amore di Dio, per mortificare la possibile vanità che può prendermi in questa vita, è un istinto della felicità futura. Perché in paradiso c'è la bellezza suprema, c'è la perfezione assoluta. E anche se io qui non ci sto in paradiso, però la mia anima sa di essere fatta del paradiso. E quindi queste cose mi nascono spontanee. E pur nella loro possibile peccaminosità in questo mondo, perché è facilissimo peccare come dire, di vanità, di culto del proprio corpo, eccetera, eccetera, però se uno le guarda in maniera oggettiva, di per sé sono spie. Spie della nostra vocazione alla felicità celeste. Nel cielo constaterai quanto ti sarà facile modificare la fisionomia e perfino cambiarla completamente. Per esempio, faccio fare una battuta. A me piacciono tantissimo gli occhi azzurri, d'accordo? Io, se ci dovessi arrivare, insomma, una prova la facciamo, se è sicuro. Ecco. Vabbè. Tutto ciò dipende ovviamente dal grado di gloria raggiunto sulla terra. Attenzione, i grandi beati che in questa vita furono grandi cristiani ottengono cambiamenti portentosi nei loro corpi. Quindi uno può anche sorridere, ma se uno aspira a diventare proprio bello, bello, bello, quindi a farsi proprio... Deve diventare un grande beato. E per diventare un grande beato a molte di queste cose su questa terra bisogna rinunciarci, figli cori, figlioli miei cari. Quindi, vedi se ti conviene, fate un po' di truccate adesso o lascia perdere le truccate adesso, che le butti tutte quante le maschere nere, le offri al Signore e dici, mi resto al naturale e però poi in paradiso te faccio vedere io, altro che... Tu tocchi le matite, come si chiamano tutte quante quelle robacce che usano le donne, le cose, i rimmel, i caspita, ne so, non sono molto pratico, non sono. E continua Riccardo. E qual è lo scopo? Ci siamo, abbiamo quasi finito, eh? Non è finito il capitolo, ma dobbiamo andare verso la chiusura noi che siamo giunti vicino al limite massimo. E qual è lo scopo di realizzare in cielo queste trasformazioni corporali e fisionomiche? Secondo voi? Chi non ha mai letto il testo e chi non ce l'ha davanti, servono a realizzare moltissimi amori nella patria, al meraviglioso modo celeste. Chi ama si adatta esattamente al suo corrispondente prototipo ideale, al suo nome nuovo e alla sua dote di manna segreta. Gli amanti si completano a vicenda con tutta minuziosità, senza concessioni a cose irrimediabili né tolleranze che dissimulano, compiono esattamente i disegni di Dio. E facciamo un'altra battuta sugli scandalizzatores, perché gli scandalizzatores, mi riferisco sempre alle informazioni arrivate, dice, Ma ti pare che i disegni di Dio siano tutti questi amori? Io dico, ma dico scusa, ma Dio non è amore? O no? Che cosa regna in paradiso? Non regna l'amore? E che cos'è l'amore? Capite come i nostri schemi mentali, guardate che io c'ho, se c'è una cosa crescendo negli anni, perché purtroppo comincio a essere vecchierello, e nel ministero, se c'è una cosa che mi preoccupa assai quando tratto con le persone, è il vedere le rigidità e gli schemi mentali. Perché guardate che sono un problema grosso. Una persona può campare in galera, cioè in galera alla schiavitù forzata, privarsi di una montagna di cose belle della vita, di informazioni, di diletti, perché vive prigioniera dentro i suoi schemi mentali, che non hanno ragione di esistere, e molti di questi sono giustificati soprannaturalmente. Ma attenzione, sono giustificati soprannaturalmente dall'idea soprannaturale che quella stessa persona si è fatta dentro la testolina sua. E chi l'ha detto che è il soprannaturale oggettivo? Chi te l'ha detto? Vedete, il confronto anche con queste cose, confronto che può anche essere, capisco che possa essere anche in un primo approccio problematico o forse anche traumatico. Ma guai, amici cari, a chi rimane dentro le proprie trincee mentali e chiude occhi e orecchi a tutto quello che gliene mette in discussione. Povero lui, povera lei, che brutta vita che farà. A cosa servono queste trasformazioni? A realizzare un sacco di bellissimi amori in paradiso. Ottimo. Magnifico, dice Riccardo. I glorificati non hanno bisogno di affacciarsi all'anima della persona amata per mezzo di abili domande, né di sottili osservazioni per indagare i suoi gusti. Ricordate quando una persona conosce un'altra, no? Che deve un attimo studiarsela un po'. Siccome il loro amore è già programmato, Dio fa sapere loro in quale modo conviene che trasformino. Avete capito cosa ho detto? Fisicamente il loro aspetto personale per incantare la persona amata. Cioè, capito? Cioè, allora, esempio, e poi ci fermiamo. Anzi, leggo l'ultima cosa che dice dell'amata perché è uno spettacolo. Allora, cioè, se io mi trovo nell'aldilà con uno dei tanti amori pensati da Dio per me. Quando me lo trovo davanti, io saprò perfettamente cosa quella persona gli piace di più, cosa vuole vedere di me e in me attraverso, e sarò esattamente come lei mi vuole. E viceversa. Ma tu immaginate se i matrimoni sulla Terra fossero così? Sarebbe proprio, ma no, strike, ma che immaginate? E Tenelamata dice, e io concludo e poi ci fermiamo la prossima volta quando si parlerà dei grandi amori che godono i più grandi beati. Non c'è fascino ingannevole, perché questo potere di modificare se stessi se lo sono meritato con le opere, con le loro buone opere terrene, opere di amore e di carità. Questo potere è un'attrattiva personale che l'uomo non ha ricevuto gratuitamente, come avviene con le qualità ereditarie, lo ha ottenuto, attenzione, buona Quaresima a tutti, per il cumulo di mortificazioni sofferte in questa vita, per contraddire la concupiscenza. Questo vale per quelli che si scandalizzano. La concupiscenza va contraddetta anche qui. C'è il matrimonio monogamico e basta. Chiaro? e compiere i comandamenti e i consigli del nostro Dio. Non si vivono queste cose se non si è diventati santi sulla terra. Questo sia ben chiaro. Ecco, così sicuramente ci si scandalizzerà un po' meno. Bene, amici, alla prossima, e Dio vi benedica e la Santa Vergine a tutti e sempre vi protegga.